Posso aggiungere... intervenire? Ditemi sì. Voi, non voglio assolutamente rubare. Va bene, Vitek, dico solo una parola, poi ti lascio... ti lascio subito la risposta. Io non sono in grado di rispondere alla domanda di Gabriel, nel senso che vorrei prima vedere, interagire con la prima intelligenza artificiale, possibilmente qui in Second Life, per capire se ci possono essere differenze fra un... No, volevo citare solamente un caso reale, andando poi un pochettino, diciamo, non sono dello stesso parere di Taiko. Non ho citato un se posso, non voglio intendere. No, sì, ok. Piedor, vai avanti. Vai pure. Che non si possa fare un paragone, non lo credo, nel senso che l'altro motore di cui, l'altro AGI di cui volevo fare un piccolo accenno era Numenta. Numenta è stato creato in base agli studi che sono stati fatti sulla neocorteccia, riportati ovviamente in maniera diciamo più generica, quindi generalizzando ancora di più quello che è il mondo delle reti neurali. Quindi questo paragone viene fatto ed è costante. Per quanto riguarda invece l'uso dei metaversi per gli agi, citerei le parole di lo stesso Ben Gonzer, se pronuncio bene, non voglio ahimè truppiare il suo nome, il quale ha addestrato nuovamente all'interno di un proprio mondo virtuale che si chiama AgiSim, è un sistema open source, e che lo ha fatto, dichiarando lui stesso nei suoi saggi, per ovvi motivi, perché la possibilità dei cosiddetti recettori, cioè di tutti quelli che sono i sensi dell'AGI, che ovviamente possono essere amplificati per quanto si voglia, ma per problemi di costruzione iniziale devono essere semplici, sono molto limitati, e quindi è più semplice farlo. Posso attivare la fisica e quindi creare il mio modello matematico per far cadere gli oggetti, ma posso tranquillamente disattivarlo per facilitare poi l'evolversi del mio AGI. Questo è quanto.